mediamente in questo territorio, a questo periodo sono caduti 600-700 mm di pioggia durante da gennaio a luglio, diciamo. Il 2003, che è stata un'altra annata famosa per la siccità, dove c'era il problema sul Po e sull'Adige, erano caduti quasi 400 mm di pioggia. Oggi ce ne troviamo 150 dall'inizio dell'anno. Non piove, non c'è stata pioggia durante l'inverno, c'è stata una leggera piovosità, magari a carattere intenso qualche volta lì tra a maggio, però dopo basta. Moltissime aziende, diciamo, che subisce la siccità, qua abbiamo tutta la bassa padovana, tutto il polesine e il basso veneziano, quindi andremo sicuramente sulle 40-50 mila aziende coinvolte. Il pensiero è sempre quello di rifare la semina e ripartire. Ci si sta lavorando nel delimitare le aree e chiedere lo stato di calamità, anche se sappiamo benissimo che lo stato dell'arte del paese, del Veneto, è quello che è, e quindi le risorse che arriveranno saranno minimali, anche perché dove è irrigabile, lo Stato, mettendo a disposizione le risorse sul fondo di solidarietà, è prevista di fare l'assicurazione anche per eventi calamitosi quali la siccità. Quindi rivolgo l'invito a tutti i colleghi dell'agricoltura che facciano questa assicurazione, che è veramente l'unico sistema per avere un ristoro importante in casi come questo. Viene definita tropicalizzazione del clima, è un dato di fatto. Quindi per questo dico che abbiamo bisogno di aggiornare le infrastrutture per l'agricoltura, abbiamo bisogno di bacini dove stoccare acqua, abbiamo bisogno di canalizzare e pompare dove non arriva, altrimenti questo patrimonio che in questo momento in Veneto, ma non solo in Veneto, era una delle poche risposte economiche in positivo, rischiamo di parlare anche di questo.